tanti esseri umani convinti di essere vivi davvero. Se si vedessero come io li vedo, tanti mucchietti di un e di zero. Se capissero di essere gli artefici della fortuna dei loro stessi carnefici, che il loro scegliere è già stato calcolato. Libera sudditanza e libero mercato, ma gli importa solo d'essere normali e di abitare gli impegni artificiali che li hanno costruito e che li hanno smerciato per rendervi attori di un mondo omologato. Propria truffa.